140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Hotel Hermitage, Milano. Una raccolta in 4 CD, sulle labbra e nel pensiero. Per Riccardo Cocciante non è una compilation, ma un'autentica autobiografia. È volutamente fatto così. Ho anche inserito alcuni brani che non sono per niente successo, come, non so, L'odore del pane. Sono dei pezzi piccolissimi, passati un po' inosservati in un disco, però fanno parte della mia storia. The Voice mi dà l'opportunità di mettere uno spot sopra di me. Ci sono alcuni giovani che sì, conoscevano alcune canzoni, ma non conoscevano il personaggio, non conoscevano bene la mia storia. Quindi questa è un'opportunità di raccontare anche questo alla nuova generazione, che dice: ma incuriositi, ecco, questa è la mia storia, sentitela. Siccome le canzoni sono un po' come dei figli, cosa provi tu per queste canzoni che hai citato che hanno avuto meno successo? Nella vita di un artista non è tutto sempre al massimo, non è tutto bellissimo, ma tutte queste canzoni sono servite all'evoluzione, alla crescita. Quindi le amo come figli. Che magari sono più da proteggere, ma non butto niente di quello che ho fatto, perché tutto è esperienza e tutto è stato per me importantissimo. Down memory lane, those the frosty days, liberties of sorrows, and work helping me. Scegliere queste canzoni è stato anche probabilmente un ripensare alla tua vita, alle sue tappe, a quanto sei cambiato tu dai primi dischi, la timidezza, l'affrontare il pubblico, il cambiare. Che tipo di percorso interiore è stato? No, è vero, io non sento mai i miei dischi del passato, perché non do molta importanza al passato, do sempre importanza al futuro. Quindi ritornare indietro a sentire... c'era in me alcuni momenti di stupore, di qualche volta dicevo, ma trovavo bello, trovavo interessante, di tenerezza forse nel sentirmi nelle prime emozioni, nelle prime espressioni, e poi sentendo tutto il disco mi sono detto, ma guarda che interessante questa evoluzione, no? Questo crescere con la mia musica. Non c'è una bugia di età, dico la mia età sempre, in tutta la mia evoluzione si sente che sto crescendo in quel momento, e questo è bella questa verità, l'ho trovata bella, interessante. Una raccolta così fa ripensare anche agli incontri, alle persone che hanno lavorato con te, ai primi album con Luberti, alle collaborazioni con Mogol. Che importanza hanno avuto per te e i tuoi compagni di viaggio? Un'importanza enorme, ovviamente, perché io diciamo che do sempre la musica prima, e ho avuto da parte di questi autori un... loro hanno capito me e hanno trasferito in parole in fondo quello che io pensavo all'epoca, e voglio ringraziare veramente tutti questi autori, sono meravigliosi, fantastici, ecco, io adesso forse l'ultimo con cui sto collaborando è Panella, e trovo che anche lui, cioè, mi dà qualcosa di grandissimo. E bello, bello loro, ma anche belli tutti gli arrangiatori con i quali ho lavorato: Morricone, Paul McBuster, Vangelis, eccetera, eccetera. Perché anche loro mi hanno dato qualcosa di prezioso, e per non parlare di tutto quello che c'è intorno. Un'affermazione molto importante che hai fatto in questa presentazione stampa che ha preceduto il nostro incontro è il fatto che tu pensi che la canzone sia specchio della società e che non bisogna parlare di canzonette, che la canzone ha un'importanza musicale e non solo. Insomma, noi siamo abituati spesso a trascurare il pop e a volte anche il rock e a derubricarlo come musica popolare poco colta. Sai, tutti i momenti abbiamo avuto musica meno colta, più colta e tutto questo, ma do valore alla canzonetta. Quante persone vengono e dicono: ma guarda, io quel periodo, quella canzone per me ha rappresentato moltissimo. Questo ti fa capire quanto è importante questa espressione, quanto è forte. Anche nelle espressioni più leggere e popolari. Entra nel cuore, entra nella tua vita, entra nella tua casa, entra, che lo dici pure ai tuoi figli. È importante, è forte, è potente. Per questo voglio rivalutare questo mezzo di trasmissione, di comunicazione. Quante volte, più di un discorso politico, è stata importante una canzone che abbia aperto gli occhi alle persone? Ecco, per questo dico, vediamola diversamente la canzone. Le epoche sono segnate, le ore sono segnate, i mesi, le nascite. È bello, è bellissimo vedere questo. Un colpo al cuore mi hai dato, mi hai svelato che Margherita in realtà non esiste, non c'è stata nessuna Margherita, noi ce la siamo immaginata per anni, invece è un simbolo, non c'è. No, non c'è Margherita, non c'è Bella Senz'anima, non c'è nessuno, perché le mie canzoni sono più allegoriche, rappresentano momenti di vita, stati d'animo. Forse la sola è la canzone che ho dedicato a mio figlio, che si chiama Vivi la tua vita, però è difficilissimo che scriva una canzone per qualcuno, perché io mi considero un impressionista, nel senso che le canzoni voglio che dicano qualcosa, ma con solo l'emozione che ti dà. Allora, tutto un pretesto, la musica, la vocalità, il testo, tutto un pretesto. In quel momento lancio un messaggio di emozione, ecco. Until I find cosa c'è nei cassetti di Riccardo Cocciante? Ma siccome scrivo sempre per piacere, quindi i cassetti si riempiono di cose più o meno belle che tengo e che piano piano vengono utilizzate. Che c'è nel cassetto? No, cosa farò adesso? Farò che Giulietta Romeo lo voglio rimettere su scena, sul palcoscenico, e che vorrei fare Il piccolo principe, che ho fatto solo in francese, e poi altre cose, altre opere popolari che ho scritto, mezze scritte, comunque che voglio realizzare. Non basta mai il tempo, guarda. "140 caratteri", una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Un altro grande della musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Ticket One, Milano. 7 e 8 ottobre, due grandi concerti all'Arena di Verona. Torna dal vivo Gianni Morandi. Avevo voglia, ci racconta di tornare a cantare. Ma molta, molta, perché ultimamente, sai, due conduzioni al Festival di Sanremo. Ho girato un film drammatico dove così mi sono cimentato insieme a Mastandrea, insieme a Elio Germano. E quindi avevo voglia di tornare a fare quello che poi è il mio vero mestiere, insomma, il cantare. Lo spot che accompagna il lancio della vendita dei biglietti del tuo concerto dice che è il concerto del 2013. Quando hai sentito questa frase un po' hai riso e un po', insomma, è un'affermazione pesante, eh? Ma sono quelle esagerazioni che Mazzi però dice, che il produttore dice: beh, ma il concerto del 2013 di Gianni Morandi, è chiaro. E però c'è una pausa, eh? C'è una, il concerto del 2013. È vero, è il concerto, dobbiamo dirlo. No, il concerto del 2013 per me sicuramente, perché ognuno che fa un concerto nel 2013, ogni artista, ce l'abbiamo tanti quest'anno, da Jovanotti a Vasco Rossi a che ne so, quelli che andranno all'Arena, Eros o Battiato, per ognuno è il concerto del 2013. Lui però, Mazzi, gioca un po' come dire il più grande evento del 2013, ma quale? Li esagera, naturalmente. Si gioca con le parole, insomma. Andiamo con la musica, o no? C'è un pezzo che dobbiamo fare. E qual era, che non mi ricordo? Ti penso e cambia il mondo. Ah. C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità. Il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà. Da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo. A proposito di parole, noi eravamo abituati al "stiamo uniti" che funziona ancora, "stiamo uniti", però adesso sarà "solo insieme saremo felici". È una frase molto bella in un periodo molto difficile, che vuol dire tante cose oltre al tuo disco che fortunatamente sta per arrivare. Beh, non so se fortunatamente, fortunatamente per me sempre. Comunque "solo insieme saremo felici" è il titolo di una canzone, naturalmente. Però non so se è una cosa che si può proprio abbinare a qualsiasi altro argomento. Non so, al governo potrebbero dire questo? "Solo insieme saremo felici"? Speriamo insieme loro e felici noi. Fanno fatica loro a dirlo insieme. Diciamo che devono fare alcune cose insieme, ma non so se sono veramente felici queste due compagini che si trovano a guidare il nostro paese. Questo è un momento di crisi pesantissimo. Ripeto che il Presidente della Repubblica ha detto che questa è una crisi angosciante. Questa parola mi fa molta paura, però io voglio mantenere un po' di entusiasmo e quindi diciamo che lo stare insieme, il cantare insieme, il far l'amore insieme, che ne so, stare insieme rende felici, diciamo questo. Mantengo un messaggio positivo, insomma. Thank you. qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene. A proposito di crisi, i prezzi dei biglietti sono assolutamente accessibili, anche questa è stata una scelta? Ma direi di sì, insomma, lì con 20 euro puoi entrare. Poi l'Arena di Verona è talmente meravigliosa da tutti i punti, cioè tu puoi essere lassù in alto o in platea, quindi direi che da 90 euro a 20 euro, beh dai, è abbastanza democratico, popolare, no? O no? Ah, io concordo. Arena per te è un ritorno dopo tanti anni, ho fatto il conto, 25, che ricordi hai? Beh, ricordo un bellissimo concerto insieme a Lucio Dalla, uno spettacolo che abbiamo poi portato in giro per il mondo, e fu nel 1988. Poi sono stato ospite tante volte di dell'Arena, ma non con un concerto mio. L'anno scorso addirittura ero con Adriano Celentano e ho condiviso con lui quel palcoscenico. Forse è venuta proprio lì la voglia di tentare e di chiedere al sovrintendente e al sindaco di Verona se mi avrebbero concesso la possibilità di fare due spettacoli. Siamo riusciti a mettere insieme questa cosa, una grande orchestra, questo è importante, è una prima volta per me, importante, perché io ho sempre cantato solo con una band o addirittura l'ultima tournée ho fatto 2 anni da solo con una chitarra. Invece avere una grande orchestra penso che sarà veramente molto emozionante, anche per uno come me che ormai ne ha fatte di tutti i colori in 50 anni. Quasi a renderla un po' lucida, viva, io ti vedo, tu così purissima, a non trovare modo, guarda di difendermi, e così ho vissuto, quasi rotolando, per non dover ammettere d'aver perduto. Come farai a scegliere le canzoni? Perché apri un armadio pieno di vestiti. Alla fine un po' di scelta bisogna fare. Mi farò aiutare da Facebook. Ah, è vero, perché sei diventato un appassionato. L'ho scoperto oggi, sei diventato un appassionato. Hai fatto anche le foto alla conferenza stampa per farle vedere ai tuoi fan. Sì, ogni giorno posto, come si dice? Posto. Posto, sì. Posto una foto, butto lì una considerazione, poi arrivano tutti i commenti, arrivano anche quelli negativi, naturalmente, le prese in giro, oppure le condivisioni. E ho scoperto questa cosa da 5-6 mesi e devo dire che c'è una pagina molto attiva, molto mi diverto. Ragazzi, non sei, ma tu, il pubblico? Ma direi di tutto, perché Facebook poi arriva anche in cinquantenni, sessantenni, di tutto. La mezzaluna canta il cielo, fantastica per noi. Una cosa da chiederti: quanto ti sei divertito a fare il vecchietto insieme a tuo figlio per il suo spettacolo? Quanto è stato divertente? Molto divertente, perché Marco ha fatto questo spettacolo dove prendeva in giro suo padre e considerava il fatto che essere figlio di è un po' pesante, quindi mi sono prestato a fare una versione di Morandi fra 20 anni, vecchio, rimbambito, seduto lì con una coperta sulle ginocchia. Mi sono fatto truccare da vecchio al massimo e devo dire una scena abbastanza divertente per chi andava a vedere lo spettacolo, rimaneva, si divertiva davanti. E Marco è bravo in questo ruolo di così di intrattenitore un po' scherzoso che prende in giro il padre, insomma, bello.